il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nella puntata odierna del quadrifoglio parleremo di montagna e in particolare delle nostre Alpi. Lo facciamo con una persona che la conosce bene, Sergio Reolongia, presidente della provincia di Belluno e oggi consigliere regionale Veneto, che ha di recente presentato una proposta di un manifesto per le Alpi. Intanto grazie consigliere di aver accettato questa intervista. Grazie a voi per l'opportunità di parlare di questo tema. Ecco, la montagna noi diciamo di amarla, di conoscerla, però forse non è del tutto vero, nel senso che magari ammiriamo la bellezza dei paesaggi, delle camminate, l'ebbrezza delle sciate, ma forse in particolar modo chi sta nella pianura è poco conoscenza, poco consapevolezza delle difficoltà e dei problemi che chi vive in montagna deve affrontare quotidianamente. Nel manifesto delle Alpi si citano ad esempio l'abbandono demografico, l'invecchiamento della popolazione e la mancanza di quei servizi essenziali che magari esistevano ma ora c'è un po' più difficoltà. Lo Stato fa più difficoltà a garantire e magari i privati hanno meno convenienza a proporre. Uno per tutti, penso alla salute, ma anche una cosa semplice, banale per molti come una linea internet veloce senza la quale magari le imprese fanno fatica oggi a rimanere sul mercato. Ecco, ma la situazione è proprio così pessimistica? C'è qualche punto in particolare e più centrale degli altri da affrontare? La situazione è certamente grave, nel senso che noi continuiamo ad assistere ad un continuo spopolamento della montagna e ad un invecchiamento della popolazione. Questi due elementi rendono sempre meno interessante investire in montagna, non solo da parte delle aziende private, ma anche da parte di delle aziende pubbliche che in realtà oggi agiscono come società private. Penso ad esempio alle ferrovie, penso alle poste, ecco, tutti questi soggetti ragionano in termini di costi-benefici. Ragionare in montagna in termini di costi-benefici vuol dire condannare quel territorio perché non ci sono sufficienti persone a garantire la redditività dei servizi. Penso a un piccolo negozio di montagna in una frazione di 40-50 abitanti, quel negozio non ha la redditività per rimanere in piedi, ma se quelle persone se ne vanno, quel territorio viene abbandonato, si crea un pericolo, un danno, la perdita di un capitale umano e fisico per tutta la collettività, anche per quelli che vivono in pianura. Mario Rigoni Ster diceva: quando anche l'ultimo montanaro se ne sarà andato, le ortiche invaderanno Piazza San Marco. Mi pare un modo per esprimere questo concetto che la montagna abbandonata rappresenta un pericolo per tutti molto forte. D'altronde lo vediamo continuamente quando avvengono le frane, i dissesti, le alluvioni. Se la montagna è abbandonata, i mali per i territori di pianura, per le metropoli di pianura, diventano più consistenti. Quindi è un interesse di tutti tenere la montagna abitata, tenere la montagna curata. Ecco, ma con questo manifesto che cosa vi riproponete? Cioè, qual è lo scopo? Ecco, lo scopo primo del manifesto, voglio dire, non è un atto di propaganda. Il manifesto si rivolge prima di tutto all'interno del nostro partito, del mio partito. La questione della montagna è uscita dall'agenda politica di tutti. Il pensiero unico neoliberista, dico io, da un lato, e poi la crisi dall'altro, hanno portato a un riaccentramento alla politica dell'emergenza e si è persa di vista il tema del territorio, della montagna. Il territorio è sparito, come il lavoro è sparito dall'agenda politica. Allora, innanzitutto questo manifesto si propone di dire al mio partito, al Partito Democratico: dovete riappropriarvi di questa questione. La questione delle Alpi deve diventare una grande questione nazionale ed europea. Questo è il primo obiettivo. Dentro il manifesto facciamo delle proposte molto concrete. La prima proposta è questa: non fate più leggi sulla montagna per piacere di carattere nazionale, non serve a niente. Il modo per salvare la montagna è darle una grande autonomia politica, finanziaria ed amministrativa perché possa autogovernarsi. Perché la montagna è un territorio non più povero degli altri, ma diverso dagli altri, e per essere governato ha bisogno di politiche diverse, che siano costruite, è un vestito fatto a misura per quei territori. Questa è la prima questione fondamentale. Facciamo una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Il quadrifoglio. Ecco, parlando di politica, viene da pensare che almeno qui nel Veneto molto spesso si parla di montagna al di là di quando ci sono incidenti o si stacca un pezzo di roccia, quando qualche comune sbandiera di andarsene, ecco. Purtroppo è così. Cosa dite voi a questo? No, ma siamo sempre appunto di fronte all'emergenza. se ne vogliono andare allora ci se ne rende conto, ma non può essere così. Il Veneto ha commesso un grandissimo errore, ha completamente abbandonato l'agricoltura di montagna ad esempio, e l'agricoltura di montagna è il primo fattore per tenere la gente legata al territorio. Quindi lì bisogna investire, bisogna metterci risorse, mantenere la montagna abitata non è un costo, è un investimento che torna utile a tutti. Questo è quello che vorrei cercare di far comprendere, e bisogna avere una visione di lungo periodo, non appunto rinchiusa all'interno della emergenza. La Regione Veneto sbaglia a non dare una forte autonomia ai territori montani. Lo Stato sbaglia a pretendere che i territori montani contribuiscano al pari dei territori di pianura al mantenimento dei costi generali dello Stato. Tradotto in soldoni vuol dire la montagna non può in montagna deve rimanere una percentuale di fiscalità generata dal territorio superiore di quella che ritorna in pianura. Ecco, tutto questo potrebbe anche servire per un ritorno anche di giovani, o per far rimanere i giovani magari nei luoghi dove sono nati. Molto spesso si dice che i giovani non hanno voglia di lavorare, ma in realtà mi pare che si assista ad un ritorno anche verso lavori agricoli o lavori anche di fatica che danno soddisfazioni che non sono solo quelle economiche soprattutto a molti imprenditori giovani. C'è una risposta anche per questo? La montagna sembra proprio fatta apposta per raccogliere questo tipo di richieste? Sempre di più vivere in montagna sarà una scelta per chi ama la montagna, per chi ha voglia di essere legato alla natura, all'ambiente, al territorio, anche alle difficoltà che questo comporta. Ma perché questo possa avvenire bisogna che si costruiscano pari opportunità per chi vive in montagna, cioè chi vive in montagna deve poter avere un accesso ai servizi pari a quello che vive nella grande città in pianura, quello che vive in montagna deve poter accedere all'istruzione, alla formazione, all'uso delle tecnologie, pensiamo alla banda larga appunto, ha opportunità di lavoro al pari di quello che vive nelle metropoli, altrimenti è ovvio che al di là dell'amore che uno può avere per la montagna, se non ci sono queste condizioni è obbligato ad andarsene, se non trova lavoro, se non trova opportunità, se non ha possibilità di studio è obbligato ad andare via suo malgrado. Ci sono esempi straordinari, io dico perfino commoventi, anche di giovani che hanno intrapreso attività in montagna legate all'ambiente, al territorio, al turismo, all'artigianato, sono bellissimi esempi, ma sono solo esempi singoli, sono delle questioni molto particolari che non fanno un cambiamento di situazione. Perché la situazione serve una strategia e anche un investimento. Esatto, perché questo. La situazione cambi, servono politiche strutturali, politiche non politiche spot, non episodiche, ma servono politiche appunto di lungo periodo. Ecco, l'ultima domanda, il turismo è visto come fosse anche la principale risorsa oggi per la montagna, e va benissimo, però non può essere questa solo l'unica risposta, cioè il turismo rischia anche di snaturare magari se ci viene di troppo turismo. Il turismo rischia di essere un dramma per la montagna, un turismo di massa, una montagna che si affidi solo al turismo e che insegua le mode turistiche rischia di snaturarsi. Quindi il turismo è importantissimo, ma da solo non cambia la situazione, da solo non può trattenere la gente in montagna. Deve essere legato all'agricoltura, all'artigianato, alla difesa del suolo, alla forestazione, all'uso delle energie rinnovabili, in particolare penso alle biomasse legnose. Cioè il problema in montagna, bisogna dare valore al territorio per costruire un'economia fortemente legata al territorio, altrimenti per la montagna non ci sono prospettive. La ringrazio. Grazie a voi. Passiamo adesso alle consuete notizie. Si tiene dal 6 al 9 febbraio a Verona la 111esima Fiera Agricola, la grande manifestazione biennale la cui prima edizione si svolse addirittura nel 1898. Molte sono le novità, è stata potenziata ad esempio l'area delle prove dinamiche con una tribuna coperta per ospitare il pubblico e un'arena dove trattrici agricole, macchine e attrezzature verranno presentate da un esperto di meccanica. Due interi padiglioni saranno invece integralmente dedicati alle sezioni vigneto e frutteto. Ampia sarà poi la vetrina sulla zootecnia e numerosi i consueti convegni, tra cui segnaliamo quelli dedicati alla nuova politica agricola comunitaria, la PAC, e all'energia sostenibile in agricoltura. Tutte le informazioni e il programma completo si trovano sul sito internet www.fieragricola.it. Passiamo adesso all'Unione Europea. Con un'interrogazione parlamentare, l'eurodeputato Giancarlo Scottà ha chiesto alla Commissione Europea di intervenire per fermare o almeno rallentare l'uso ingiustificato di antibiotici che viene fatto negli allevamenti intensivi di suini da ingrasso tipici del Nord Europa. Una pratica diffusa specialmente in Germania, nonostante sia vietata dalle norme europee. È giusto che i consumatori siano a conoscenza di questa situazione, afferma Scottà. Il mercato interno italiano è invaso da prodotti stranieri che, oltre a penalizzare la salute economica delle nostre aziende, possono rappresentare un rischio per la salute delle persone. Cambiamo notizia, in base ad una proposta sempre del Parlamento europeo, il limite di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli commerciali leggeri venduti nell'Unione europea dovrà essere ridotto entro il 2020 dagli attuali 203 grammi per chilometro a 147. Il testo, già informalmente concordato con i ministri dell'Unione, chiede l'introduzione di metodi più affidabili per i controlli delle emissioni di anidride carbonica. Infine, lo sportello Europe Direct Veneto, sportello dell'Unione Europea presso Veneto Agricoltura, ha attivato un nuovo servizio, è infatti presente sia in Facebook sia in Twitter, due strumenti tramite i quali saranno forniti quotidianamente notizie flash europee. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.